giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Un'aggressione in piena regola, forse una spedizione punitiva, quella andata in scena ieri sera a Prata di Pordenone. 7 feriti, uno grave, tensioni fortissime nella comunità Sikh e nella frazione di Villanova, aumentano i timori dei residenti. Ancora difficoltà nella ricostruzione dei tetti distrutti dal maltempo. Nei centri più colpiti in Friuli l'emergenza estiva non è ancora finita e da oggi si possono chiedere risarcimenti per i danni subiti. Gli ultimi dati della regione confermano il rallentamento dell'occupazione, soprattutto nell'industria, nei primi 6 mesi dell'anno, in crescita gli inattivi. 3 milioni di euro per sostenere progetti di inclusione e favorire percorsi formativi nelle scuole di montagna. La regione presenta il protocollo operativo. Il potere di acquisto delle pensioni e dei salari, la crisi della sanità pubblica, ma anche l'accoglienza a migranti e il contrasto alla violenza sulle donne, sono i temi della festa regionale di libertà del sindacato pensionati della CGIL in corso a Tricesimo. Distrazione e alcol, le cause più frequenti di incidenti che in molti casi coinvolgono i neopatentati. La polizia locale di Trieste organizza una giornata di sensibilizzazione sulla guida sicura. La storia della vianese Pamela Maggioni, che ha scelto di trasferirsi in una località vicino a Cortina d'Ampezzo per fare la pastora transumante. Vive in simbiosi con 600 pecore. Buongiorno da Livia Liberatore, Andrea Covre in studio per questa edizione del giornale radio regionale. Partiamo con la maxi rissa di Pordenone. Il bilancio dei feriti sale a 7. Indagini in corso per ricostruire quello che è successo ieri sera a Villanova di Prata. Le 6 persone sono ricoverate in ospedale. Rimane una sola persona ferita in modo grave, ma in condizioni stabili. Gli inquirenti raccolgono le testimonianze di chi ha assistito alla gigantesca rissa. Sono arrivati una 50 di persone, macchine su macchine, da qua fino all'incrocio. E mio marito è il presidente del tempio di Pasiano. Erano giù ad aspettare i carabinieri e li hanno aggrediti, cioè li hanno. E poi è corso mia sorella, hanno picchiato anche mia sorella e anche mio papà. È nella tranquilla zona residenziale di via Saba a Villanova di Prata di Pordenone che ieri sera all'ora di cena si è consumata una maxi rissa tra esponenti della locale comunità Sikh. Una 50 le persone coinvolte, 7 i feriti, di cui uno grave ma non in pericolo di vita, il 29enne Sharnpreet Singh, colpito al torace e alla gamba, come ci racconta la moglie Anilgit, ancora sconvolta in casa con lei il figlio di pochi mesi. Mio marito, non sono ancora sicura, ma forse anche uno sparo sulla gamba. È grave lui, cioè ha una ferita profonda dietro sulla schiena, quasi 10 centimetri, sulla pancia, sulla fronte. A mio papà gli hanno rotto il gomito e il braccio gli hanno dato al presidente anche. Devono operarli tutti e due. I vicini si chiudono in casa, ci sono bambini piccoli, ci dicono abbiamo paura. I carabinieri del comando provinciale di Pordenone, che stanno conducendo le indagini coordinate dalla procura per individuare i responsabili, escludono che siano stati sparati colpi di pistola. Gli aggressori avrebbero usato bastoni e armi da taglio, in quella che dalle prime informazioni sembra avere i contorni di una spedizione punitiva. La comunità Sikh è al centro di tensioni emerse dalla gestione del Tempio di Pasiano. Sono rimasti feriti nell'aggressione il presidente dell'associazione che gestisce il tempio, Kulvinder Singh, e il consigliere e presidente dell'Unione Sikh Italia, Satvinder Singh Bajwa. 2 settimane fa le loro auto erano state bruciate nella notte. Prata di Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. Da oggi i privati possono avanzare la richiesta di risarcimento per i danni subiti dalle ondate di maltempo di luglio e agosto. Dalla prossima settimana toccherà le aziende e nei centri più colpiti l'emergenza non è ancora finita. Il problema principale riguarda la ricostruzione dei tetti distrutti. C'è preoccupazione in vista dell'autunno. Oggi un vertice in prefettura a Udine. Il 112 che continua a squillare per interventi non più legati alla stretta emergenza, come l'aggiustamento dei teli sui tetti. Vigili del fuoco che non riescono più a farsi carico di interventi non urgenti perché le risorse umane non sono illimitate. Imprese edili che non si trovano oppure non possono lasciare i cantieri per non incappare in penali. Operazioni sui tetti che non possono essere eseguite da chiunque e comuni a corto di personale ma con l'esigenza di dover dare risposte ai cittadini. A meno di 2 mesi dalle grandinate, tutti i nodi risolti dopo la prima fase emergenziale vengono al pettine in riunione in prefettura a Udine. La coperta è corta, ovunque la si tiri. Il comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Udine a settembre ha già superato il numero di interventi effettuati di solito in un anno. Giorgio Basile, comandante dei Vigili del Fuoco. Queste sono teli, strutture temporanee, non definitive, e quindi per poter andare oltre l'emergenza l'unica cosa sarebbe quella della ricostruzione dei tetti. Più di 40.000 le istanze sul territorio da gestire. In alcuni comuni i primi sopralluoghi arriveranno solo in aprile. Costruttore e Confartigianato chiedono proroghe quantomeno per i cantieri legati alla regione, così da poter dare più risposte al territorio. Eddie Pertoldi, sindaco di Lestizza. Sarà una situazione che i sindaci difficilmente riusciranno a dirimere se non c'è un punto di riferimento. Le prossime riunioni serviranno a trovare soluzioni, aprire un fronte istituzionale per domandare più risorse al governo, chiedere l'aiuto dei tecnici del soccorso alpino, ma anche riattivare i centri operativi comunali a mo' di filtro. Fabrizio Pitton, sindaco di Talmassons. Trovare un modo che la comunicazione arrivi, sì, chiaramente sempre all'112, ma che poi ci sia una comunicazione dei Vigili del Fuoco verso, in questo caso, i comuni, per poter magari non veicolare, ma bensì dare alcune criticità che magari noi evidenziamo essendo proprio sul territorio. Penso anche alle persone fragili che magari sono in casa da sole, che quindi anche un piccolo spostamento di un telo, di un filtramento d'acqua, in questo momento secondo noi è considerata urgente. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. I temi del lavoro: diminuisce in regione l'occupazione nei primi 6 mesi dell'anno, a destare allarme soprattutto la forte contrazione del numero di occupati nell'industria. Rimane però alta la domanda di lavoro. È soprattutto il rallentamento dell'industria a infliggere un duro colpo a livello di occupazione in Friuli Venezia Giulia. La crisi in cui è entrata la manifattura, anche a causa del rallentamento dell'economia tedesca, ora desta preoccupazione per i suoi risvolti occupazionali in un settore che sul nostro territorio rappresenta un quarto dei posti di lavoro totali. A dirlo sono i dati Istat relativi ai primi 6 mesi del 2023, rielaborati dall'Osservatorio regionale sul mercato del lavoro. A livello generale, tra gennaio e giugno di quest'anno, gli occupati in tutto il Friuli Venezia Giulia sono stati 519.394, nello stesso periodo del 2022 erano stati quasi 527.000, un calo dell'1,4%. Calano però anche i disoccupati di oltre 10 punti percentuali, mentre gli inattivi crescono del 2,1%. Ed è appunto l'industria a far registrare la peggiore performance occupazionale, con un calo di 7,6 punti percentuali, pari a circa 10.000 lavoratori in meno. Negativi anche i numeri del commercio, che segna un meno 6,7%, dato quest'ultimo che è però fortemente influenzato dalla stagionalità, specie per quanto riguarda ristorazione e comparto alberghiero. A crescere in numero invece sono i lavoratori del settore agricolo, con una variazione positiva del 10,7%, pari a circa 1.500 unità, e del comparto edile, che conta 1 migliaio di occupati in più. Per quanto riguarda la tipologia di rapporto di lavoro, diminuiscono del 2,3% i dipendenti con contratto di lavoro subordinato, solo parzialmente compensati dalla crescita del 2,5% degli autonomi. Lorenzo Gerlinzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia. La regione ha stanziato nella finanziaria estiva 3 milioni di euro a favore della scuola del Friuli Venezia Giulia. I soldi in più sono destinati anche a percorsi di lingua tedesca nelle scuole di montagna e a sostenere progetti di inclusione sia degli stranieri che di studenti con disturbi dell'apprendimento. Ai 23 milioni di euro già destinati all'istruzione si aggiungono ora altri 3 milioni di euro che la regione Friuli Venezia Giulia ha scelto di dedicare per il terzo anno consecutivo nella manovra di bilancio estiva a sostegno di diverse progettualità, a partire dal supporto per l'assunzione di personale amministrativo tecnico ausiliario, per l'assunzione di insegnanti di sostegno, ma anche per sostenere progetti dedicati all'inclusione di ragazzi provenienti da famiglie straniere. Non solo, nelle aree di montagna e di confine c'è una forte richiesta per l'introduzione della lingua tedesca a scuola. Ecco che la regione Regione ha destinato 250.000 euro per sostenere questa richiesta, per permettere quindi anche l'assunzione di docenti di lingua tedesca. Altri soldi sono stati destinati a sostenere progetti per studenti con disturbi specifici dell'apprendimento, i cosiddetti DSA, ma anche alla scuola, in ospedale e poi alla continuità a domicilio per i bambini fragili, purtroppo, è stato detto in conferenza stampa, sempre più numerosi. Il protocollo è stato presentato nel Palazzo della Regione Friuli Venezia Giulia dall'assessore regionale all'istruzione Alessia Rosolene e dalla direttrice dell'ufficio scolastico regionale Daniela Beltrame. La conferenza stampa si è conclusa pochi minuti fa. Il pluralismo deve essere un'occasione, è stato detto, siamo l'unica regione che conta nel proprio territorio tre lingue minoritarie, sloveno, tedesco e friulano. Tutte le scuole della regione possono far richiesta, la sperimentazione era nata a Tarvisio ma l'interesse ora si è esteso in tutta la regione Friuli Venezia Giulia. Trieste, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. Il centro per i rimpatri, nella mia esperienza di Gradisca di Sonzo, funziona molto bene perché garantisce i rimpatri e soprattutto la sicurezza dei cittadini del luogo. Lo ha detto il governatore del Friuli Venezia Giulia e presidente della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga, parlando dell'emergenza migranti a margine di un convegno sulla semplificazione normativa a Roma. Perciò, ha aggiunto Fedriga, voglio rassicurare gli altri amministratori, visto che ne ho uno nella mia regione, è un impianto controllato dove chi è dentro non può uscire e quindi non è impattante per il territorio. Ed è anche il tema dell'immigrazione ad essere al centro della festa regionale di Liberetà del sindacato pensionale della CGIL in corso a Tricesimo. Sentiamo. Parità di genere, quindi lotta contro la violenza sulle donne, sanità e soprattutto immigrazione sono alcuni dei temi toccati nel dibattito di questa mattina durante la festa regionale Liberetà organizzata dalla categoria dei pensionati della CGIL a Tricesimo, il tutto in vista della manifestazione del 7 ottobre indetta dal sindacato confederale guidato da Maurizio Landini. Allora al segretario proprio dei pensionati dello SPI CGIL Roberto Treu chiediamo il perché di questa mobilitazione. Ma la mobilitazione è perché chiediamo una legge finanziaria che rispecchi quelle che sono le varie priorità del Paese, che sono sicuramente l'intervento sulla sanità, sul sociale e che sono sicuramente quelle di mettere a tutela i livelli retributivi delle persone rispetto all'inflazione e soprattutto i pensionati che hanno visto decurtare le pensioni per la non applicazione di un accordo che avevamo sottoscritto col governo Draghi di riequilibrio delle pensioni e inflazioni e che di fatto hanno previsto le pensioni una riduzione in questi anni stata del 30% del potere d'acquisto. Anche sull'immigrazione avete voluto parlare oggi? Sì, abbiamo parlato perché l'immigrazione non è un fenomeno di cui aver paura, è un fenomeno che va affrontato perciò che queste persone vengono integrate, c'è un processo di integrazione, conoscono la nostra lingua, conoscono i nostri usi e costumi e vengono inserite per poter lavorare. In Italia mancano milioni di posti di lavoro, ci sono posti di lavoro non coperti da persone, in regione la situazione della Confindustria ha detto che ci sono 60.000 posti di lavoro scoperti. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. Il Comune vuole rivedere gli accordi con la Triestina sulla gestione dello Stadio Rocco e prenderà in carico in futuro il rifacimento del campo dopo grandi eventi, ma per l'estate priorità i concerti. Oggi il dibattito in Consiglio Comunale. Mentre la Triestina ha celebrato con un successo la prima trasferta casalinga a Fontana Fredda, a Trieste il grande accusato per la vicenda del deterioramento del manto erboso dello Stadio Rocco, l'assessore comunale allo sport Giorgio Rossi, si è difeso davanti ai consiglieri della Commissione Trasparenza del Consiglio Comunale. Innanzitutto precisando che, se gli eventi sportivi fanno capo al suo portafoglio, la gestione degli impianti è responsabilità invece di un altro assessorato, quello ai lavori pubblici, la cui titolare, Elisa Lodi, ha precisato al termine della riunione il presidente della Commissione Polacco, verrà convocata quanto prima. Rossi ha poi ricostruito tempi e costi della rizzollatura decisa dopo il concerto dei Måneskin del 16 luglio, che, causa il caldo di quei giorni, ha detto, ha letteralmente lessato l'erba dello stadio. Il rifacimento del manto, costato circa 220.000 euro a carico della società organizzatrice del concerto FVG Music Live, è terminato a metà agosto, mentre il 4 settembre si è svolta la prima partita della nuova stagione della Triestina, quella conclusa con una sconfitta contro il Trento e dopo cui si sono accese le polemiche sulle condizioni del campo. Rossi ha poi fatto il punto sul contratto tra Comune e Triestina, spiegando che la società sportiva paga ogni anno 20.000 euro per l'utilizzo dello stadio per partite e allenamenti, a fronte di una spesa da parte del Comune di circa 400.000 euro annui per la manutenzione del Rocco e dello stadio Grezzar. Un accordo che va rivisto, secondo l'assessore, che infine, sollecitato dalle domande dei consiglieri sulla possibile sovrapposizione l'anno prossimo tra eventuali partite di playoff e concerti già calendarizzati, ha ricordato l'importanza dei concerti esperti come fattore di attrazione turistica della città e ha assicurato un cambio di linea sulla gestione del prato. Le prossime regole d'ingaggio, ha concluso, prevedono che sarà il comune e non gli organizzatori dei concerti a rifare il campo. Trieste, Daniele Lettig, TGR Friuli Venezia Giulia. C'è la necessità di un grande intervento di ristrutturazione di tutti gli impianti sportivi della regione. Per questo la giunta regionale ha deciso di approvare un ulteriore bando a sostegno della manutenzione ordinaria a favore delle associazioni sportive che sono proprietarie o hanno in concessione strutture per le proprie attività. È quanto ha annunciato il vicegovernatore con delega cultura e sport Mario Anzil, illustrando l'approvazione da parte della giunta regionale dell'avviso pubblico che concede contributi da un minimo di 10.000 a un massimo di 40.000 euro per interventi di manutenzione ordinaria di impianti sportivi. La dotazione iniziale del bando è di 1,3 milioni di euro che la giunta si riserva eventualmente di aumentare in base alle domande. La polizia locale di Trieste, fino alle 15 nel piazzale davanti al Palachiarbola, organizza una giornata di approfondimento sulla sicurezza stradale rivolta ai neopatentati e agli studenti delle scuole superiori. Ne abbiamo parlato con l'ispettore capo Ornella Divo. Il programma prevede un driving test per i neopatentati e dovranno provare a guidare sul bagnato e fare alcuni test di slalom e di evitamento ostacoli. Con degli istruttori di guida, con il metodo ACI Ready to Go, gli istruttori di guida sono dell'ACI e sono specializzati nella guida sicura. Che riscontri avete da questo tipo di eventi? Sicuramente sono riscontri molto importanti perché tanto i ragazzi imparano proprio a evitare eventuali ostacoli, a capire l'importanza di andare piano quando piove, quando è bagnato e soprattutto capiscono che, perché noi puntiamo su questo, che avere l'attenzione totale sulla guida con le mani sul volante, la testa tutta concentrata nella guida è fondamentale per evitare qualsiasi tipo di incidente stradale. Proprio domenica mattina c'è stato un incidente a Barcola che ha coinvolto 4 ragazzi. Quali sono le cause di incidente più frequenti? Al 90% delle volte è la disattenzione. La mancanza di attenzione alla guida, la distrazione per, che ne so, un messaggio che arriva, il compagno di automobile, l'amico che ti chiede e distrai lo sguardo dalla strada, è questione di una frazione di attimo. Diamo un'occhiata al meteo, il cielo è nuvoloso sulla regione, queste le temperature registrate alle 11, a Trieste 25 gradi, mare poco mosso con temperatura di 25 gradi, a Gorizia 20, Udine e Pordenone 25, Tolmezzo 21 gradi, Tarvisio 17, Forni di Sopra 19, Piancavallo 18, Sappada 17, Monte Zoncolan 15 gradi, Monte Lussari 13, tornando sulla costa grado 24 gradi, a Lignano 26, temperatura del mare 25 gradi. Le previsioni dell'ARPA regionale: nelle prossime ore avremo cielo in prevalenza poco nuvoloso su pianura e costa, variabile al pomeriggio in montagna. Nel corso della giornata sarà possibile qualche isolato rovescio, anche temporalesco, ma in genere a carattere localizzato. Per domani giornata di tempo in genere stabile, con prevalenza di cielo poco nuvoloso o variabile e scarsa probabilità di piogge, venti a regime di brezza. Fare il mestiere del pastore, circondata da 600 pecore, è la scelta di un'avianese che si è trasferita in una località vicina a Cortina d'Ampezzo, dove vive in simbiosi con gli animali. Ero in un bosco, me la ricorderò sempre questa scena, sono venute verso di me, mi hanno circondata e io da quel momento sono andata via con loro. Quando ho visto gli animali ho detto: ecco chi sono, io voglio fare questo nella mia vita. Pamela Maggioni, originaria di Aviano, ha scelto di stabilirsi tra le montagne, in questo luogo d'incanto, in località Fosses, a Cortina d'Ampezzo, dove vive in simbiosi con gli animali. Qui fa la pastora di circa 600 pecore. Non vedono mai stalle, non vedono mai un filo di fieno, di mangime, solo erba, ricercandola continuamente attraversando due regioni, quindi dalla bassa friulana fino a qua, a Fosses. Sicuramente è difficile proseguire con questa attività perché abbiamo tante difficoltà anche create dall'esterno. non per ultimo il lupo e i grandi carnivori. Più che una passione o un lavoro, fare la pastora transumante per lei è una scelta di vita. Sicuramente a livello fisico è un lavoro che mette alla prova, però io assolutamente non lo chiamo fatica, non lo chiamo sacrificio, ma lo chiamo un lavoro meraviglioso. Quando ti trovi stanco, sotto la pioggia, succede magari anche un inghippo, proprio nelle peggio condizioni che ti puoi immaginare, e ancora ti piace quello che stai facendo, allora vuol dire che quello non è il tuo lavoro ma è la tua vita. Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. Lo sport, il calcio in Serie C per la Triestina è di nuovo campionato. Gli alabardati saranno infatti impegnati oggi pomeriggio alle 18.30 a Crema sul campo della Pergolettese. In dubbio l'impiego del centrocampista Umberto Germano, uscito anzitempo sabato sera. Mister Attilio Tesser conta per il resto su tutti gli effettivi. Qualche cambiamento rispetto a sabato ci sarà, ha detto l'allenatore alabardato alla vigilia. Forse una variazione per reparto. Di fronte, ha detto Tesser, avremo un'ottima squadra, quella che tecnicamente mi ha colpito di più in questo inizio di stagione. Basket, dopo la vittoria contro Udine di venerdì, la Pallacanestro Trieste affronta oggi alle 20.30 al Pala Trieste i siciliani della Trapani Shark ai quarti di finale di Supercoppa di A2. Trieste arriva ai quarti da testa di serie, seconda in assoluto nel quoziente canestri dietro a 100. In palio c'è ora l'accesso alle Final Four di Montecatini Terme. Gli abbonati potranno accedere gratuitamente al match e acquistare un biglietto aggiuntivo al prezzo di 5 euro. La musica, Antonello Venditti e Francesco De Gregori si preparano a salire sul palco di Villa Manin per l'unica tappa in Friuli Venezia Giulia del loro tour. I biglietti per il concerto sono ancora in vendita online e lo saranno anche alla biglietteria del concerto dalle 18.30, inizio della musica alle 21. Altri appuntamenti, il Teatro Nuovo Giovanni da Udine presenta la stagione di prosa, musica e danza con l'evento a ingresso libero palcoscenico aperto alla presenza del presidente della Fondazione Paolo Vidali, direttori artistici Fiorenza Cedolins e Roberto Valerio e l'assessore alla cultura di Udine Federico Pirone alle 17. Si inaugura con un viaggio musicale tra 7 e 800 la stagione di San Vito Musica proposta dall'Accademia d'Archi a Rigoni. Il concerto Musica a Berlino per la corte di Federico il Grande si terrà al Teatro a Rigoni di San Vito al Tagliamento alle 20.45. L'Istituto Internazionale di Studi sui Diritti dell'Uomo di Trieste promuove un incontro sul PNRR mirato a fornire una miglior conoscenza delle linee guida dell'Europa sugli aiuti economici. L'appuntamento, organizzato nell'ambito del progetto Forum Mondiale della Scienza e Innovazione, si tiene da remoto dalla pagina web iduforum.com alle 15. La scrittrice Raffaella Carnielutti presenterà il suo nuovo libro La pulce e altre storie della carne, una raccolta di fiabe e leggende che nasce dalla ricerca delle tradizioni che la comunità carnica coltiva da secoli. L'incontro si tiene a Zoppola nel Palazzo Municipale alle 20.30. Presentazione del libro Il futuro è decrescita, traduzione italiana dell'opera dello storico tedesco Matthias Schmelzer, della ricercatrice Andrea Vetter e del giornalista canadese Aaron Vasintian. A discuterne ci sarà il curatore Andrea Rizzi, parteciperà con un contributo video Luca Mercalli, autore della postfazione alla traduzione italiana. L'appuntamento è alle 18 alla libreria Ubic di Trieste. Presentazione del libro Storie di persone ordinarie. L'autrice Antonella Longo sarà intervistata dall'insegnante e scrittrice Ivana Vaccaroni alle 18 alla libreria Friuli di Udine. Al via a San Vito al Tagliamento la prima edizione di Terre Tagliamento Festival, progetto nato dalla sinergia di 8 comuni della provincia di Pordenone che hanno intrapreso un percorso di aggregazione territoriale rivolto alla promozione delle terre tagliamento come destinazione turistica. Il festival prevede un programma diffuso in diversi luoghi del territorio con escursioni a piedi e in bicicletta, incontri e spettacoli che proseguiranno fino a domenica. Inaugurazione oggi alle 19 al centro di ricerca dei vivai Rauscedo a San Giorgio della Richinvelda. Il vescovo Monsignore Enrico Trevisi presiederà oggi a Trieste la preghiera ecumenica in occasione della giornata mondiale di preghiera per la cura del creato. Parteciperà all'incontro e offrirà la sua riflessione anche Andrei Cilergic, vescovo della Chiesa serbo-ortodossa per Austria, Svizzera, Italia e Malta. Al cuore della liturgia i messaggi di Papa Francesco e del Patriarca Bartolomeo alle 18 nel Tempio di San Spiridione della comunità serbo-ortodossa. Alla risiera di San Saba a Trieste andrà in scena stasera e domani lo spettacolo teatrale La Notte, tratto dal romanzo autobiografico di Elie Wiesel, sopravvissuto alla Shoah e premio Nobel per la pace dell'86. L'iniziativa fa parte del programma culturale 1943-2023, Trame intrecciate di memoria, promosso dal Comune di Trieste in occasione degli ottantesimi anniversari che ricorrono quest'anno, dall'armistizio dell'8 settembre alla partenza del primo convoglio di deportati razziali da Trieste il 7 dicembre. Lo spettacolo inizierà alle 21 con ingresso libero, prenotazione consigliata all'indirizzo risierasansabba@comune.trieste.it. Da lunedì prossimo tornano gli appuntamenti informativi del mattino della testata giornalistica regionale della RAI. Su RAI 3 ripartono Buongiorno Italia e Buongiorno Regione. Ben ritrovati, dal 25 settembre tornano Buongiorno Italia e Buongiorno Regione, le rubriche del mattino della TGR, da lunedì al venerdì, con Buongiorno Italia dalle 7, l'ultima ora, la cronaca, la panoramica sui fatti nazionali con collegamenti con le redazioni regionali, la rassegna stampa e il meteo, con Buongiorno Regione, alle 7.30 l'informazione locale e di servizio, le inchieste, le curiosità, le vostre segnalazioni e le buone notizie. TGR Buongiorno Italia e Buongiorno Regione. Da lunedì 25 settembre, dalle 7 su Rai 3. Alle 12.55 si chiude questa edizione del giornale radio regionale, redatta e condotta in studio da Livia Liberatore e Andrea Covre. È andata in onda grazie alla collaborazione tecnica di Mauro Ciccarelli e Vassia Krismancic. In redazione ha collaborato Edoardo Veglia. Grazie per essere stati con noi. Buon proseguimento d'ascolto. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.